Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la puntata in sé. Oggi, come ampiamente promesso, ci occuperemo del referendum sull'acqua, che già specifichiamo non è sulla privatizzazione dell'acqua, ma sull'ingresso dei privati nelle reti idriche, una cosa un po' diversa. Il tema è delicatissimo, chi vi parla ha una posizione molto neutra sulla cosa e la specifico subito. Abbiamo una rete di acquedotti che perde quasi il 50%, anzi un po' di più, dell'acqua che trasporta, con picchi dell'80% nell'acquedotto pugliese. E questo è inaccettabile, sia come efficienza di sistema, sia perché l'acqua, lo dicono tutti, a partire dagli ecologisti, è un bene raro. Primo aspetto. Secondo aspetto, c'è il timore, e questo è l'altro fronte, il fronte del sì al referendum, che l'ingresso dei privati porti inesorabilmente a un aumento tariffario. Il ragionamento è perché i privati dovrebbero contribuire a investimenti intorno ai 64 miliardi di euro per rimettere a posto la rete idrica, se non per un ritorno, non fanno mica beneficenza, per un ritorno sull'investimento. Questi due paletti su cui ci muoveremo in apertura. Poi passeremo alle borse che perdono soprattutto Milano oggi, meno 1,20% per quello che riguarda Piazza Affari, e con un calo particolarmente significativo sul Monte dei Paschi, sul Banco Popolare e su UbiBanca. Nell'ordine, meno 5,1% Monte dei Paschi, meno 4% Banco Popolare, meno 3,20% UbiBanca. Ancora meno 2,36% la Popolare di Milano, Exor meno 2,90% tra gli altri titoli, Lottomatica meno 2,80%, Azimut meno 2,70%, Pirelli meno 2,50% come Atlantia, Tods meno 2,20%, Campari meno 2%, Fiat Industria meno 1,90%, Autogrill meno 1,80% come Buzzi, Unicem e Finmeccanica. Fronte opposto, Bulgari più 0,3%, Diassorin più 0,21%, sono gli unici titoli positivi, Eni è invariata. Ecco perché, visto quanto pesano le banche sul nostro indice, il Milano perde più della media degli altri listini europei, Parigi meno 0,55%, Francoforte meno 0,50%, Londra meno 0,70%. Euro vicinissimo a quota 1,46, a 1,45,88, e allora il referendum sull'acqua come primo tema, poi anche l'andamento dei consumi visto dalle Camere di Commercio italiane. Infine, nella seconda ora del programma ci occuperemo della TAV, l'avevamo promessa anche questa come puntata, purtroppo si accavallano vari temi, riusciamo a fare solo oggi. La TAV perché? Perché è stato prorogato il termine, la scadenza di lunedì scorso, senza questa proroga l'Italia avrebbe perso più di 600 milioni di euro di contributi europei per realizzare la TAV, e mi riferisco chiaramente alla tratta Torino-Lione, quindi la parte anche della Val di Susa, prorogata fino al 30 giugno da quello che si capisce, però resta il nodo, esercito sì, esercito no, Maroni, il ministro Maroni ha smentito l'uso dell'esercito, anche qui cercheremo di capire che senso abbia l'investimento, se è remunerativo o no, se invece va visto in una chiave non, in una logica non privatistica, come farebbe appunto un privato, ma in una logica da Stato che guarda anche in avanti e capisce quelli che sono gli obiettivi strategici e in questo caso geoeconomici dei prossimi 10 anni, non del prossimo mese. 349-238-6666 per i vostri sms e adesso rapidamente le altre notizie in breve. Una nota di servizio, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul fatto che le frequenze di Radio 24 siano disturbate in Lombardia, Milano, vedo anche a Latina e a Bergamo, stiamo cercando di capire con il nostro ufficio tecnico che cosa sta succedendo, chiedo scusa comunque se non, la ricezione non è perfetta. Allora, adesso mi tocca fare anche, dare anche informazioni di servizio. C'è un problema nella ricezione, in effetti, in Lombardia, Milano e Bergamo, se ho ben capito, perché stanno facendo dei lavori in Valcava, dove, che dovrebbe essere in provincia di Bergamo. E lì ci sono i ripetitori di Radio 24. Di nuovo chiedo scusa a nome della radio per la cattiva ricezione del servizio. Andiamo avanti con i temi. L'oro è a 1544 dollari l'oncia, fermo. Il petrolio è fermo a 98 dollari, sotto i 100 dollari al barile. Nessun invece aumento di quote produttive dell'OPEC, ossia dell'organizzazione che riunisce i paesi maggiormente esportatori di petrolio. Sembrava ci fosse l'accordo per aumentare la produzione di petrolio, visto il calo derivante dalla produzione libica. Quote invece invariate. Il giorno dopo l'allarme lanciato ieri sera dal numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, la banca centrale. Oh mamma mia, no, vedo tutti i segnali, anche a Treviso non si sente bene, disturbato nella provincia di Verona, a Brescia tutto ok, almeno a Brescia tutto ok, anche a Cuneo problemi e anche a Roma, vabbè, anche a Pesaro, ragazzi non so, siamo un club di pochi eletti oggi, visti i messaggi che arrivano. Comunque andiamo avanti, dicevo, dopo le dichiarazioni di ieri sera di Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, che ha detto la crescita negli Stati Uniti continua a essere lenta in maniera disperata, oggi è intervenuto il futuro presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha detto non vedo motivi per introdurre cambiamenti nel modo in cui è stata condotta la politica monetaria negli ultimi 12 anni, quindi la linea sarà quella di Trichet e prima di lui anche di Duisenberg. Ancora Draghi sugli eurobond, cioè sull'ipotesi che l'Europa possa emettere delle obbligazioni di carattere europeo, solo con importanti cambiamenti istituzionali che attualmente appaiono improbabili è possibile, ha detto Mario Draghi, pensare al varo di obbligazioni di carattere europeo. I debiti dei paesi dell'area euro, il Portogallo, la differenza con tra quanto rende il titolo di Stato tedesco e l'equivalente portoghese è salita a un record al 7%, il BTP decennale di Lisbona infatti rende ormai il 10%, una soglia molto molto molto elevata, molto molto rischiosa. E poi un dato tedesco, allora c'era un'attesa di un calo nelle esportazioni tedesche, ma il calo era atteso intorno al 3%, è stato molto più brusco, meno 5,5% ad aprile, ricordo che a marzo vi fu un balzo record più 7%, 7,2%, ma a sorpresa è calata in Germania anche la produzione industriale, soprattutto da quello che si capisce per via del settore edilizio, meno 0,6%, e appunto il settore costruzione ha avuto un calo di quasi il 6%, ad aprile ma aveva fatto un botto del 5,5% a marzo. Io continuo con questo aggiornamento, adesso anche a Bari si sente male, a Roma si sente male, a Follonica si sente male, io non so che fare, l'unica cosa che tenderei ad escludere, come scrive un ascoltatore, è che si tratti di un boicottaggio adesso. Troppa grazia Sant'Antonio, non siamo così importanti da essere boicottati. Veniamo all'Italia, di nuovo vertice Berlusconi Trembossi Tremonti per rilanciare, bisognerà dare un segnale a breve di rilancio dell'economia anche con la riduzione delle tasse e di mantenere nel contempo il necessario rigore nei conti pubblici. Il sentiero è molto stretto, assomiglia un po' alla moglie ubriaca, la botte piena, però va assolutamente cercato, ne parliamo ormai da settimane. E E poi il ministro Brunetti. Molto probabilmente quest'anno il tasso di crescita sarà tra l'1,3 e l'1,5%, ha detto Brunetta, ma non è sufficiente. E poi durante l'assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio, vi faremo ascoltare poi il presidente Dardanello, c'è stato uno scambio di battute un po' pesante tra il ministro Brunetta e il giornalista del Corriere della Sera, che neanche vice direttore, Dario Di Vico. Allora, sono anche in grado di darvi l'aggiornamento sul perché la ricezione di Radio 24 sia così difficile in alcune aree del paese. Ci sono problemi anche sul satellite a causa maltempo. Dopodiché vorrei chiudere con questo capitolo, perché se vorrei andare avanti anche con il resto. Mi dispiace, mi fa piacere vedere che molti di voi scrivono, evidentemente sono degli ascoltatori affezionati. Ci stiamo lavorando, stiamo mandando una persona sul satellite a sistemare uno dei nostri tecnici di frequenza. Dicevo, scambio di battute polemiche tra il ministro Brunetta e il giornalista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, che ha lasciato la sala accompagnato nel corridoio dall'applauso e dalle strette di mano di alcuni presenti. Aveva detto Brunetta: non mi piacciono i giornalisti faziosi, in un passaggio del suo discorso. Dario Di Vico non ne ha mai parlato nel suo giornale delle novità introdotte per i certificati medici. E poi lo scontro va avanti quando il giornalista, che era tra gli ospiti seduti sul palco durante l'intervento del ministro, ha replicato: c'è data una notizia, la riforma fiscale non si farà, visto che ha annunciato una crescita tra l'1,3 e l'1,5%, la riforma fiscale si farà. Insomma, io dico una cosa, sono tutti nervosi sti ministri in questo periodo, allora io capisco il dato sulle amministrative, fatti e non parole, fatti e non nervosismo. I giornalisti fanno il loro lavoro, mettono in evidenza, scusatemi, alcuni problemi. È inutile prendersela sempre con le televisioni, con la stampa, con i giornalisti. Non si perdono le elezioni per colpa della televisione, della stampa e dei giornalisti. Abbiate un favore e facciate un favore, così come non si vincono, visto che c'è chi sostiene anche il contrario. Referendum sull'acqua, al di là dell'ideologia, al di là degli schieramenti, al di là di tutte le posizioni ambigue e soprattutto politiche, l'acqua è un bene importante, questa è retorica pura. Cerchiamo di capire cosa prevede questo referendum. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, perché il tema dell'acqua, di nucleare abbiamo già parlato. Adesso vi faccio sentire cosa ha detto oggi il ministro Romani e faccio anche una chiosa. Però di nucleare abbiamo parlato tantissimo dopo Fukushima, purtroppo. E gli altri quesiti referendari non interessano in maniera stretta questo programma. E allora concentriamoci su quello dell'acqua. Sul nucleare veramente non saprei più cosa dire, ormai ognuno le posizioni le ha. Il caso giapponese è stato così forte che ha chiaramente schierato le persone. Abbiamo raccontato le varie dichiarazioni del governo in quest'ultimo anno, compresa l'ultima, due giorni da Fukushima, dopo Fukushima, le dichiarazioni del ministro Prestigiacomo: noi andiamo avanti con il nucleare. Il governo ha fatto una retromarcia evidente, palese, è inutile far polemica su questo. Il ministro Romani oggi sul referendum. Andiamo a fare un referendum su un argomento che il governo ha già risolto. Quindi il quesito referendario, almeno per quanto riguarda il tema nucleare, per quanto mi riguarda è quasi un quesito inutile, nel senso che è già stato risolto dal governo. Sì, ognuno può pensare come vuole. Faccio notare al ministro Romani che la Corte Costituzionale non la pensa così, perché ha dato via libera al referendum, per cui... Dopodiché, stendiamo un velo pietoso sulla retromarcia del governo dopo Fukushima, su un cavallo di battaglia forte come quello del nucleare, su cui personalmente mi sono beccato decine di insulti dagli ascoltatori. Io ho una posizione abbastanza neutra, andiamo a vedere cosa fanno gli altri paesi, compresa la Francia, e non demonizziamo il nucleare. Ma veniamo all'acqua. 1.400.000 firme per il referendum del 12 e 13 giugno. Che cosa stabilisce il referendum? Allora, Il referendum è abrogativo, quindi chi vota sì è per abrogare questo decreto. Il decreto che stabilisce l'affidamento a soggetti privati attraverso gara o affidamento a società a capitale misto pubblico-privata, all'interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. Tradotto, l'ingresso dei privati con almeno il 40% nelle società che gestiscono la rete idrica, non nell'acqua tout court. Ancora, la norma prevede che entro il 2011 le società di gestione a totale capitale pubblico cessino o si trasformino in società a capitale misto entro il 2011. E infine, le società miste collocate in borsa dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro il giugno 2013 e al 30% entro il dicembre del 2015. Ringrazio una lista lunga di ospiti, l'ingegner Franco De Benedetti, ex senatore del DS. Buonasera, ingegnere. Mi sente? Buonasera. Buonasera. Grazie anche all'assessore lavori pubblici e protezione civile della Regione Puglia, Fabiano Amati. Buonasera anche a lei. Buonasera. Visto che l'acquedotto pugliese è il più grande d'Europa, ricordo bene? Sì, sì. Più grande d'Europa. 20.000 chilometri, opera anche in Campania, Basilicata. E grazie anche a Domenico Bonaccorsi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti e presidente Confindustria Catania. Buonasera anche a lei. Buonasera. La scheda, prima di tutto, così capiamo quanto inefficiente sia il servizio adesso e però a quali condizioni i privati potrebbero entrare. In attesa che le urne diano semaforo verde o meno a una più decisa entrata dei privati nel mercato nazionale dell'acqua, non c'è dubbio che la posta in gioco sia alta. Innanzitutto, la torta da 64 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 30 anni, per sistemare i 320.000 chilometri di tubi che portano l'acqua nelle case. Più che tubi, un colabrodo, visto che di 100 litri raccolti alla fonte, solo 53 arrivano a destinazione. A Bari, poi, bisogna mettere in rete 187 litri per consegnarne 100. Una galassia di sprechi che costa 2,5 miliardi l'anno, ma dove spiccano casi virtuosi come Milano, che smarrisce solo 11 litri ogni 100. Un valore poco superiore ai virtuosi tubi tedeschi, che perdono 7 litri ogni 100. Ma all'utente finale, che vede scorrere l'acqua dal rubinetto, perché dovrebbero interessare le falle della rete idrica e il fatto che per tapparle siano necessari 64 miliardi? Perché, dice il Censis, se il 14% verrà da aiuti pubblici a fondo perduto, il resto sarà finanziato dalle bollette. Con un aumento, da qui al 2020, calcola Utilitatis, del 18%. Una prospettiva allettante per i potenziali pretendenti al mercato dell'acqua privata. Ma un'eventuale presenza più massiccia dei privati nel settore idrico, quali ricadute avrebbe sul portafoglio? Ad oggi, nelle regioni dove il processo di privatizzazione è più avanti, come Toscana, Umbria ed Emilia, si pagano prezzi più elevati. Inoltre, dal 2002 al 2010, le bollette italiane sono cresciute del 65%. Nonostante questo, l'acqua italiana costa mediamente meno che nel resto d'Europa, 1,3 euro a metro cubo, contro i 3-4 euro all'estero. Un tedesco paga quasi 1.000 euro all'anno, il triplo rispetto a noi. Bolletta salata anche a Parigi, 733 euro, Barcellona, Oslo ed Helsinki, con quasi 400 euro. Allora, adesso dirò una bestialità. Io sono a favore dell'aumento della bolletta idrica, chiaramente scaglionata, proporzionata al reddito, perché più costa l'acqua, meno ne sprechiamo. E costa troppo poco, e a mio avviso ne sprechiamo troppa. Detto ciò, ingegner Franco De Benedetti, lei è a favore del no, cioè vuole mantenere questa... No, io sono per non andare a votare. Per non andare a votare, va bene. E quindi la posizione è neutra. Chiariamo... No, non neutra. Per non andare a votare è una posizione più forte del no, perché significa che se tanti non vanno a votare non si arriverà al quorum e quindi non sarà approvato il referendum. Perfetto, diciamo che non le piace, non vuole questo referendum sull'acqua. Assolutamente no. Okay. Credo che sia pernicioso per il paese. Allora, l'obiezione, io devo fare l'avvocato del diavolo con tutti e le due, diciamo, schieramenti, opinioni. Allora, L'obiezione di chi è per il sì è la seguente: 64 miliardi di investimenti in un settore che ha tariffe ancora bassissime, un terzo di quelle europee, il privato non entrerà mai se non gli viene garantito un aumento tariffario. Quindi è un modo per dire: entri il privato e poi le tariffe salgono. Che cosa risponde, ingegnere? Già, perché il pubblico non le paga. No, scusi, non ho capito. Se ci sono da spendere 64 miliardi, se il privato li paga e se il pubblico, chi li paga? No, non è che lo spariscono i 64, che piovono dal cielo, i 64 miliardi. 64 miliardi li paga qualcuno. Perché lei ha detto solo del primo referendum, ma c'è il secondo che è abbastanza interessante, perché il secondo dice, se non vado errato, che la tariffa deve essere sganciata dai costi di remunerazione del capitale, cioè che quei 64 miliardi non li deve pagare la tariffa. Esatto. Allora chi li paga? Perché la paga evidentemente la fiscalità generale. A parte il fatto che questo è abbastanza iniquo, perché prima di tutto è un regalo a chi evade, perché quello le imposte non le paga, è un omaggio grazioso a chi ha dei consumi, diciamo, affluenti, non so, una piscina, un giardino da innaffiare, eccetera. E poi è un invito a chi inquina, perché poi l'acqua va considerato tutto il ciclo dell'acqua, quindi anche la depurazione, e questi 64 miliardi sono riferiti anche a questo. E quindi l'invito è chi inquina, perché se costa poco, chi inquina non paga, avrà interesse a inquinare di più. Allora, questo referendum è anche iniquo, oltretutto. Poi vorrei dire, scusi se mi permette, il problema centrale è come viene assegnata la responsabilità di gestione. Gestione intendendo per gestione sia l'ammodernamento delle reti. Certo. Viene assegnata dal comune alle sue strutture, oppure viene assegnata a mezzo gara? Perché che sia il pubblico o il privato, o il privato insieme al pubblico, è entro certi limiti abbastanza ininfluente. L'importante è che ci sia stata una gara e che venga affidato con una gara di cui si sa il prezzo, di cui si sa il capitolato, di cui si sa quello che deve essere fatto. Questo è l'importante. Perché vede, e lì è importante, perché se ha fatto mezzo gara, se chi ha vinto la gara, la gara era stata fatta male, per cui c'è un extra profitto, questo extra profitto, se è un privato, va nei suoi bilanci e e l'autorità li può vedere e può vedere di fare delle correzioni alla gara. Se rimane nei conti del comune, ma lei la vede un'autorità, che cosa vuol dire questo sovrapprezzo? Che vuol dire? Maggiori regali agli amici a cui si danno i subappalti e maggiori dipendenti. E lei la vede un'autorità che fa licenziare i dipendenti? Sì, allora, fermo restando che io non sono dell'idea che il pubblico sia sempre inefficiente, però lei si riferisce anche al secondo quesito, se vincono i sì, eviterà una maggiorazione sino a un massimo del 7% sulla bolletta per remunerare il capitale investito dai privati, cioè sgancia la bolletta da quello che viene investito sulla rete. Ingegnere De Benedetti, ancora una domanda, poi passo agli altri due ospiti. C'è un'altra obiezione che viene fatta a questa legge, non al referendum. La legge, obbligando a delle scadenze certe, quelle che riferivo prima, e cioè il vincolo per il capitale pubblico di scendere al 40% entro il giugno 2013, al 30% entro 2015, l'obbligo a vendere almeno il 40% entro il 2011, compie un'operazione che va a ridurre il valore, perché in qualunque mercato, se tu obblighi a vendere a una certa data, è chiaro che il prezzo di quello che vendi cala, perché tanto so che sei obbligato. Non trova che sia un'obiezione corretta? Lei che è un liberista noto? No, non credo che questo sia un'obiezione. Voglio dire, se uno vuole vendere, intanto c'è un tempo abbastanza. Poi bisogna vedere che, siccome se la percentuale di pubblico diminuisce, il valore dell'azienda aumenta, perché diventa più contendibile sul mercato, perché l'azienda verosimilmente viene anche gestita. Quindi non è detto che il valore dell'azienda diminuisca. No, perché trovo un po' strano questo obbligo a cedere le quote in società che magari sono anche in attivo, sono inutili, cioè non tutti gli acquedotti in Italia sono inefficienti. Avrei, così come liberista, avrei preferito la possibilità di mettere sul mercato quote, fermo restando che da sempre questo programma è contro l'ipertrofia delle società controllate dai comuni, le municipalizzate, non solo, che vanno a fare concorrenza al privato nell'elettricità, nel gas, nell'acqua e quant'altro. Poi non hanno i soldi per gli asili, per le buche delle strade, non hanno i soldi per i parcheggi. Comunque, meteo, pubblicità, poi vorrei sentire chi è a favore del sì, e quindi Fabiano Amati, e di nuovo chi invece è nettamente a favore del no, ossia Domenico Bonaccorsi, 349-238-6666 per i vostri sms. 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Fabiano Amati, che è assessore ai lavori pubblici della Regione Puglia, l'acquedotto pugliese, ripeto, è il più grande d'Europa, 20.000 chilometri, 850.000 utenze, e è controllato dalla Regione Puglia con una quota del 9%, dalla Regione Puglia. Poi sentiremo anche Domenico Bonaccorsi. Mi dica perché lei voterà sì e soprattutto cosa risponde all'obiezione di chi dice attenzione, gli sprechi che connotano la rete idrica italiana, non solo il vostro acquedotto, sono tali da giustificare comunque un intervento, cioè non parlare di un sistema efficiente che la privatizzazione della rete snaturerebbe. Ma guardi, innanzitutto il quesito referendario è organizzato per abbattere l'obbligo dei privati sulla base di un totem, il totem che privato è meglio che pubblico. Io le parlo dalla Puglia, dove l'anno scorso Acquedotto Pugliese ha chiuso il bilancio con 10 milioni di utili, senza aver tolto un goccio d'acqua a nessun cittadino, e il bilancio che chiudiamo nelle prossime settimane relativo all'esercizio 2010 avrà un utile di 36 milioni di euro. Quindi l'efficiente gestione non manipolata dalla politica, oppure per quanto riguarda il pubblico, oppure dal malaffare per quanto riguarda il privato, perché abbiamo anche esempi nella cronaca nazionale, certo, di privati inefficienti che addirittura hanno mandato sul lastrico diversi cittadini, è chiaro che questo totem va abbattuto. Ciò detto, credo che l'argomento fondamentale è che noi stiamo discutendo di una risorsa, l'acqua, che ha natura giuridica pubblica e nessuno lo mette in dubbio, nemmeno il legislatore, con il 23 bis. Il tema è che l'acqua, per poter entrare a casa mia e a casa sua, ha bisogno di una mediazione, un mediatore che è il gestore. Il gestore, nell'ambito del processo di mediazione, può decidere dove realizzare un impianto di depurazione, ovvero un impianto di affinamento, come nel caso della Puglia, perché nel servizio idrico integrato in Puglia ci sono anche gli impianti di affinamento che, per utilizzare l'acqua in agricoltura, e questo ovviamente viola un principio di equità, perché l'acqua è un bene che garantisce anche condizioni di equità. Allora, se davvero si vogliono usare categorie culturali del passato, in realtà un punto di vista liberale è esattamente il punto di vista che dà la possibilità di scegliere se una gestione privata o pubblica, con riferimento alle caratteristiche idrauliche e geomorfologiche di ogni regione. Lei pensi un po', il più grande acquedotto d'Europa, 21.000 chilometri di rete, per gestirlo c'è la necessità dell'intervento pubblico, di una gestione pubblica, perché diversamente da così è evidente che nessuna possibilità in una terra sitibonda di raggiungere luoghi che magari fanno conseguire soltanto pochissimi contratti, il pubblico lo fa per una condizione di equità e di giustizia, il privato non lo farebbe mai. E tenga conto, conclusivamente, che questa storia che in Italia ci sono tante perdite. Beh, insomma, in Italia voi perdete il 47% dell'acqua. Ma questo, diciamo, è un dato omerico, perché io sfido chiunque a duello retorico per dimostrare che così non è. Ma al di là di cos'è questo, un dato omerico? No, la mia curiosità mi dica. Cioè, si ripete, si tramanda, perché da quando Salvemini disse che l'acquedotto pugliese dà più da mangiare ai genovesi che da bere ai pugliesi, da allora l'acquedotto pugliese non funziona. No, ho capito, ecco, però insomma sono dati che noi abbiamo trovato su qualunque statistica, dopodiché pronti a essere smentiti. No, se riprende Blue Book, che è il rapporto svegliato d'Italia vede che la performance dell'acquedotto pugliese in materia di perdite è stata abbassata negli ultimi anni notevolmente, tant'è che oggi possiamo dire che le perdite fisiche, non quelle amministrative che sono cattiva gestione, mancata fatturazione, sono nella misura del 23%. Allora, allora assessore, fermo restando che voi avete chiuso inutile, ed è vero, probabilmente grazie anche all'aumento delle tariffe il prezzo dell'acqua a Bari è aumentato di quasi il 18% negli ultimi due anni, il che, ho detto come provocazione, io sono anche a favore di un'acqua più cara, così ne sprechiamo meno, perché delle volte tutta questa acqua che praticamente ha un prezzo politico, non costa nulla, non sensibilizza. Era volutamente una provocazione, lo dico a chi scrive al 349 238 6666. Il resto dell'idea, come spiegava anche l'ingegnere De Benedetti, che sarebbe stato meglio nella legge, nella 23 bis, dare la possibilità alle amministrazioni comunali, non l'obbligo di cedere le quote, ma la possibilità di far entrare i privati. Le chiedo però perché voi siete contrari. Voglio dire, a ragion di logica, se vi entra un privato col 40%, e perché vuole entrare, e voi detenete il 60%, questi milioni che mette il privato voi li potete utilizzare per altro, per la rete infrastrutturale se siete regione, per gli asili e altri servizi se siete comune, no? Non farebbero comodo anche voi i soldi? Ma no, ma scusi, ma se io fossi l'amministratore di questo azionista privato, lì è l'azionista, e io decidessi che devo andare a fare un depuratore a Sava Manduria, a Sava, che è una piccolissima città, devo fare un notevole investimento, e io decidessi una cosa del genere con la remuneratività di quel capitale investito, che non avverrà mai perché a metro cubo il servizio idrico integrato in Puglia costa 1,57 euro, lei promuoverebbe immediatamente l'azione di responsabilità nei miei confronti nella migliore delle occasioni, oppure chiamerebbe un manicomio, perché lei non comprenderebbe per quale ragione io, amministratore nominato da lei, azionista privato, compia una performance di questa natura. Sì, allora io ripeto, sono molto neutro su questo, perché penso che la legge sia scritta male con questi obblighi non così liberali, secondo me, di vendere quote entro una certa data. Però resto anche dell'idea che, visti le inefficienze del settore, visti gli investimenti necessari, 64 miliardi di euro, l'ingresso del privato, se ci vuole entrare, se vede un interesse nella cosa, non dovrebbe essere esorcizzato come oddio arriva il privato. Vorrei sentire, dopo il traffico, abbiamo molte interruzioni in questo orario, anche il vicepresidente dell'Associazione Nazionale tra Industriali degli Acquedotti, e poi l'ultimo giro 349-238-6666 per i vostri sms, poi chiaramente anche la borsa con il tonfo oggi del Banco Popolare -4,34% e anche di UbiBank -3,30%. Di nuovo in diretta, un po' di pazienza per chi vuole la borsa. Dottor Bonaccorsi, che cosa risponde a chi dice: attenzione, i privati entrano solo se possono guadagnare, e quindi questo porterà inesorabilmente a un aumento delle tariffe? E che cosa risponde anche a chi dice: attenzione, non si doveva imporre per obbligo alle società, agli acquedotti, di cedere le quote? Quelli che ne hanno voglia lo facessero, che sul territorio volessero fare entrare dei privati, gli altri, se riescono a reggere, sono inutili, possono anche non essere obbligati a cedere quote. Prego. Allora, io, premesso che sono totalmente d'accordo con l'intervento dell'ingegnere De Benedetti, a me dispiace che si debba ricorrere al mezzo di disertare i referendum, che trovo che sia un istituto di democrazia eccellente, però purtroppo il massacro mediatico che è stato fatto sui referendum dell'acqua, con una veicolazione di un messaggio totalmente falso, io vedo le città tappezzate di sia l'acqua pubblica, che non c'entra nulla. No. Stiamo parlando dell'abrogazione di una legge, il decreto Ronchi, cosiddetto decreto Ronchi, che prima di tutto riguarda i servizi pubblici locali in genere, con l'esclusione di alcuni, energia, gas, che sono disciplinati da altre discipline, ma che riguarda per esempio i rifiuti, il trasporto urbano, eccetera. Quindi siamo... No, ma chiariamo che l'acqua resterà pubblica, che il referendum allora, è per è pubblica, dire sì ad oggetto del referendum la privatizzazione dell'acqua, quindi questo è assolutamente un messaggio sbagliato, quindi si può ricorrere contro ovviamente un messaggio così forte che fa preso sul cittadino, che è ignaro di quello che va a firmare, a votare, e quindi è giusto, l'unico strumento è quello di disertare le urne. Premesso questo, devo fare un'osservazione anzitutto all'assessore, e mi spiace che non è a corrente, di come funzionano le gare, perché qui si tratta di gare, cioè il decreto Ronchi, ma non lui, perché la legislazione precedente prevedeva le stesse cose. Il decreto Ronchi ha introdotto pochissime innovazioni, per esempio questo che lei citava dell'obbligo dei comuni, degli enti locali di scendere al di sotto di una certa percentuale nelle loro partecipazioni, e certamente dei paletti più ferrei per quanto riguarda l'affidamento. Mi dica delle gare. Del servizio, sono le uniche due novità, tutto il resto ci sono sempre state, le gare ci sono sempre state, i bivacchi ci sono sempre stati, le miss ci sono sempre state, quindi non c'è questa rivoluzione portata dal decreto Ronchi, quindi altra falsa informazione. Non è vero che il gestore ha libertà di decidere se fare un depuratore o meno, o dove farlo, perché fa parte del bando di gara, quindi è tra l'altro del piano d'ambito alla base che sottende al bando di gara, quindi se è un obbligo di realizzare il depuratore anche dove non conviene realizzarlo. E portare la rete anche dove non conviene. Cioè lei dice, mi scusi, non è una tariffa libera, ecco, è oggetto del bando di gara, dell'offerta, e quindi se c'è una vera gara e se c'è concorrenza si può star sicuri che il cittadino utente avrà la minor tariffa possibile e il miglior servizio possibile. Cos'è che manca in tutta questa legislazione? Un'autorità di controllo. Non esiste effettivamente un controllo, si rischia, voglio fare un esempio che tutti conoscono, quello delle autostrade. Impegno quando sono state private di realizzare degli investimenti che poi non sono stati realizzati. Bene, questo va sancito con la revoca della concessione, va sancito in maniera assolutamente ferrea, non si può permettere che si vinca una gara promettendo quello che poi non si mantiene, questo è assolutamente da evitare. Per il resto io sono contro la logica del privato pubblico, metterli uno contro l'altro, perché ci sono delle gestioni pubbliche eccellenti e ci sono delle gestioni private pessime, non c'è questa dicotomia tra privato pubblico e privato, per forza il privato è bello e il pubblico è negativo, non c'è. Per questo quello che prevale dovrebbe essere il mercato, cioè la gara, cioè trovare le condizioni migliori del servizio. Questo è lo spirito della legge, che ripeto non è stato introdotto dal decreto Ronchi, ma è vigente da almeno dal 1994, cioè dalla legge Galli in poi, con tutte le proteste. Allora, io ho bisogno di una risposta in un minuto, perché poi ho il GR, vi devo salutare e ho altri temi. Però Bonaccorsi, mi dica una cosa, ho capito, lei dice c'è la gara e soprattutto è il pubblico che decide dove fare il purificatore, dove fare l'acquedotto, dove portare la rete, e chi vuole partecipa alla gara. Domanda: perché un privato dovrebbe entrare in un settore che ha dei rendimenti così bassi? Ma guardi, innanzitutto il privato, io presiedo un'azienda che ha 130 anni di vita, non esisteva la norma che i referendari vogliono abolire, quella della remunerazione del capitale, che abbiamo campato per 130 anni, abbiamo realizzato senza un centesimo di denaro pubblico qualche centinaio di chilometri di reti, certo non siamo l'acquedotto pugliese, cioè, ma se le faccio un esempio, come non è questo che il discorso, per fortuna la remunerazione del capitale è garantita dalla Costituzione, quindi volere abolire quella che è una norma... No, ma la domanda è se entra il privato, insomma, è l'obiezione più forte, chiederà delle tariffe più alte, sì o no, fermo restando che le sono già... Le tariffe più alte sono dovute non al fatto che ci sia un privato o un pubblico, probabilmente il pubblico è portato comunque ad aumentare le tariffe, se facciamo un paragone tra i gestori privati, anche perché i gestori privati sono purtroppo oggetto, no, sono naturalmente, giustamente oggetto di censura da parte dell'utente molto più del pubblico, è giusto, per cui praticamente non è vero che il problema è l'investimento, ci sono degli investimenti, attenzione che noi stiamo parlando del ciclo integrato dell'acqua, quindi fornitura, depurazione e acqua, e questo comporta gli investimenti che si parla, Conviri parla di 64 miliardi di euro, studi più recenti parlano di 120 miliardi di euro. Allora questi si possono fare o attraverso la sovvenzione pubblica, cioè attraverso il denaro dello Stato, quindi la fiscalità generale, oppure quotata in tariffa spalmata in una lunga gestione di 30 anni, per cui dove sacrificando meno possibile la tariffa Allora io devo però chiudere. Confesso che non ho capito quest'ultimo aspetto, cioè è chiaro che le tariffe sono aumentate anche con il pubblico, segnalano gli ascoltatori di Arezzo un 35%, spero di aver letto bene, anzi 350%, questo leggo. Le bollette sono aumentate anche in altre parti d'Italia. Resto dell'idea che la legge potesse essere scritta meglio, che manchi, lo riconosceva anche Bonaccorsi, l'autorità poi di vigilanza. Non vorremmo rivedere il caso delle autostrade per l'Italia, che hanno preso la concessione, gli aumenti tariffari, non sempre sono stati fatti gli investimenti sulla rete infrastrutturale promessi. Resto anche dell'idea che demonizzare l'ingresso del privato con l'assenza di risorse del pubblico sia sbagliato e che le gare facciano bene a tutti, massima concorrenza. Grazie a Franco De Benedetti, a Fabiano Amati, a Domenico Bonaccorsi, GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso non posso più continuare a parlare dell'acqua. Spero che comunque le posizioni diverse siano state chiare e soprattutto ognuno ha avuto il suo spazio, e questo è il lavoro del giornalista e dell'informazione, o perlomeno dovrebbe essere la borsa. Allora, malino oggi Milano, meno 1,44%. Dico malino perché meglio hanno fatto Francoforte, più 0,60, Parigi, Francoforte meno 0,60, Parigi meno 0,80, Londra meno 1%. L'America guadagna invece lo 0,14%. Cosa ha penalizzato in maniera più significativa rispetto ad altre borse Milano? Beh, il Banco Popolare meno 4,34, Exor meno 3,40, Ubibanca meno 3,30, Monte dei Paschi meno 3,1% e la Popolare di Milano meno 2,70. Se aggiungiamo anche Pirelli, che ha perso il 2,80, l'Automatica il 3,11 e Azimut meno 3,23, abbiamo chiuso il cerchio. Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Perché così male le banche e soprattutto il Monte dei Paschi e il Banco Popolare? Beh, le banche, come già Grecia? Parlavamo, sì, c'è sicuramente l'effetto Grecia, in più su Milano adesso c'è l'effetto degli aumenti di capitale. Infatti anche recentemente l'unica banca che limitava i danni era San Paolo, perché è quella che è già un po' più avanti in questo processo, avendo già chiuso il periodo di sottoscrizione dei diritti, e Ubibanca invece è al momento in corso, mentre il Monte dei Paschi di Siena ieri il CDA ha esercitato il mandato per l'aumento di capitale da oltre 2 miliardi. Il Banco Popolare non ha aumenti in corso, ma è spesso un titolo che soffre, tra quelli che soffrono di più quando sono in calo tutti i bancari. Inoltre ci sono sempre l'effetto negativo delle parole del Presidente della Fed, Ben Bernanke, questo su tutto il listino, che ieri ha ammesso che la crescita economica negli Stati Uniti è inferiore alle aspettative, e inoltre le continue incertezze sulla situazione in Grecia. Ricordiamo che ieri il Ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha detto apertamente che se il paese non ottiene ulteriore supporto, l'Europa si potrà trovare di fronte al primo reale rischio di insolvenza nell'Eurozona, quindi questo sicuramente non aiuta, il settore finanziario è il primo che ne risente. Poi c'è la vicenda Luxottica, che insomma è una vicenda molto particolare, meno 2% oggi, ma non tanto sul dollaro debole quanto su Ferragamo. Sì, esattamente, il titolo è debole ormai da qualche seduta, c'è sicuramente anche l'effetto del dollaro debole, ma inoltre risente della perdita della storica licenza con Ferragamo, che lunedì ha annunciato di aver siglato un accordo con un gruppo americano che sostituisce proprio quello con Luxottica, che è in scadenza alla fine del 2011. È un accordo che prevedeva la possibilità di un ulteriore rinnovo per altri 2 anni, che ovviamente quindi non ci sarà, e quindi pone fine a una collaborazione che risaliva fino al 1998. Unipol. Unipol è stata sicuramente una giornata molto brutta. Per allora, il titolo perde ha perso il 7,90% sulle privilegio 6,56. Prego. Sì, il rumor sul mercato oggi è stato quello di un possibile aumento di capitale per la banca, quindi per Unipol Banca, l'istituto di credito controllato dal gruppo. Che ancora mancava nella lista degli aumenti di capitale, o sbaglio? Che ancora manca, esattamente. La società oggi ha fatto sapere che di non essere a conoscenza di motivi per giustificare il calo del titolo, e quindi di fatto negando che ci siano al momento operazioni del genere in corso. In aprile, a fine di aprile l'amministratore delegato Cimbri aveva dichiarato che se sarà necessario anche in ottica di Basilea 3 rafforzare la banca, questo sarà fatto, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto in corso, però il titolare ha sentito proprio di questa indiscrezione. Ancora tra i titoli, T-Media come va oggi? L'effetto Santoro sulla borsa ancora non l'avevamo visto, l'abbiamo visto ieri e nei giorni scorsi. Per Converso invece vediamo come è andata Mediaset oggi, perché Mediaset no, meno 0,23%, continua una scia debolezza, diciamo, dopo le dopo le amministrative. T-Media. Sì, Telecom Italia Media oggi è stata proprio... Che controlla la 7, perché non lo so. Esattamente, è stata proprio sull'8 volante, ha alternato forti rialzi a flessioni, ha chiuso in calo del 2,82% e c'era stato appunto l'effetto Santoro in arrivo sulla 7, inoltre oggi in discrezione su una possibile opera in arrivo per il delisting della società che è stata smentita dalla controllante Telecom, anche se il titolo rimane al centro dell'attenzione anche per il possibile arrivo di un nuovo azionista di riferimento ventilato anche da alcuni esponenti del top management, quindi il mercato attende novità su questo fronte. Ancora tra i titoli segnalo debolezza anche su Tenaris, meno 1,60%, Generali meno 1,70%, gli energetici tengono abbastanza, meno 0,25% Eni, Snam Rete Gas meno 0,50%, Bulgari più 0,25% invece. Sul gas, sentiamo cosa ha dichiarato oggi Paolo Scaroni, numero uno dell'Eni, sul fabbisogno che l'Italia avrà sempre di più di gas. Il gas continuerà a crescere, il consumo di gas crescerà a scapito di carbone, energia nucleare, anche petrolio. Quindi prima cosa una grande crescita. Seconda cosa, questa crescita avverrà utilizzando gas non convenzionale, appunto lo shale gas, il gas che viene dall'energia. La Cina ci sta pensando, ma non ha ancora iniziato lo sfruttamento. L'unico paese dove lo sfruttamento è massivo sono gli Stati Uniti, dove ormai rappresenta il 20% dei consumi di gas di quel paese. Per quanto riguarda l'Italia, la crescita c'è già stata. Nessun paese d'Europa usa tanto il gas quanto noi. Perché io credo che noi siamo l'unico paese d'Europa che ha quasi il 60% dell'energia elettrica prodotta a gas. Io dico che quando noi accendiamo la luce stiamo aprendo il rubinetto del gas. Così appunto il numero dell'Eni, Paolo Scaroni, a margine oggi dell'assemblea di Union Camere, se non ricordo male, preso dai nostri colleghi a Roma. Paolo Paronetto, che è successo a Bialetti? Voglia di caffè? Bialetti oggi ha chiuso più 5,68%, tra l'altro fino a pochi minuti dalla chiusura il rialzo era quasi doppio, era stato per lungo tempo oltre il 12%, e la società sta recuperando terreno dopo aver perso quasi l'8% dal 31 maggio, giorno in cui era stato pubblicati i conti dell'esercizio 2010, e inoltre la società aveva annunciato di essere vicina ad un accordo con le banche finanziatrici, dato che aveva registrato il mancato rispetto dei parametri finanziari concordati con le banche. Evidentemente il mercato si attende che questi negoziati possano arrivare a un esito positivo a breve, il titolo comunque ha recuperato, insomma diciamo che il mercato ci crede alla possibilità di raggiungere questo accordo e quindi di garantire la continuità aziendale della società. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora, una breve rettifica, Paolo Scaroni parlava a margine della consegna degli Eni Awards 2011 e l'intervista del nostro Jacopo Matano. Adesso c'è il traffico e poi parliamo della TAV. Devo dare però una risposta a un ascoltatore prima. Che è una mia sconfitta professionale, perché scrive un ascoltatore, insomma alla fine io non ho capito cosa succederà se voterò il no o se voterò il sì. Io non so più come spiegarlo. Se vota sì, viene abrogata la legge 23 bis... che prevede le cose che abbiamo raccontato, l'ingresso dei privati fino almeno il 40% entro il 2011, per le società collocate in borsa devono invece scendere al 40% entro il giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015. Se vota sì, viene abrogata questa legge. Se vota no, resta invece questa legge. Quindi, se non volete l'ingresso dei privati nella gestione, non nell'acqua, non nella proprietà, nella gestione del servizio idrico attraverso gare. Gestione vuol dire tutto, vuol dire appunto anche depuratori e quant'altro. Votate sì se non li volete. Se volete gare, ingresso dei privati, appalti in concorrenza, votate no e resta questa legge che, ripeto, dal mio punto di vista ha due grossi problemi: fissa delle date come obbligo, e secondo me è un'operazione poco liberista, poco da mercato, e non prevede un'autorità di vigilanza su quello che poi è l'investimento realmente effettuato quando aumentano le tariffe. C'è un secondo quesito referendario, anche qui se si vota sì si elimina la possibilità che vengano agganciate tariffe a investimenti fino a un massimo del 7%, una maggiorazione fino al 7%. Se uno vota no, mantiene invece la possibilità che le tariffe idriche vengano agganciate fino a un rincaro massimo del 7% ai capitali che i privati hanno investito. Sull'autorità di vigilanza siamo d'accordo. Perché lo dico? Perché la vicenda che molti citano via sms al 349-238-6666 della società Autostrade non è stata un caso edificante. Mi chiamerà l'ufficio stampa di Autostrade, non importa. La concessione è stata data ai Benetton, le polemiche si sono trascinate per anni, ricorderete ai tempi in cui c'era il governo Prodi, sugli aumenti tariffari dei pedaggi autostradali a cui non sono corrisposti investimenti analoghi o promessi. Quindi l'autorità serve, servirebbe anche per la rete autostradale, il traffico. Ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni, un altro argomento leggero leggero dopo la privatizzazione della rete idrica. Volete sapere se il 40% è almeno il 40% di ingresso dei privati? E dicevo, dopo il referendum sull'acqua, come viene chiamato, in realtà è sull'ingresso dei privati e le gare nella rete idrica, un altro tema leggero leggero, la TAV, la Torino-Lione. Fortunatamente l'Italia per ora non perderà i 670 milioni di finanziamenti europei, perché l'Europa ci ha concesso fino al 30 giugno prossimo per far partire i lavori del tunnel. Altrimenti il tunnel si chiama la Maddalena, se non ricordo male, ma non c'entra nulla con la Sardegna, dove devono partire gli scavi. Se non partono i lavori perdiamo 670 milioni di euro di finanziamenti europei. I manifestanti No TAV presidiano però l'area di Chiomonte, appunto la Maddalena, scontri con le forze dell'ordine, lancio di pietre e poi questa cosa indegna delle buste con proiettili recapitate ad esponenti e alla sede anche del PD Torino in via San Francesco d'Assisi, una cosa vergognosa. E poi il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto che dice siamo pronti a militarizzare il cantiere, Maroni però lo corregge, dice non sarà impegnato l'esercito ma il cantiere partirà nei tempi previsti, non saranno tollerati gli atti di violenza. Abbiamo escluso l'utilizzo dell'esercito, certo nelle condizioni attuali non c'è necessità di intervento dell'esercito, la priorità è che l'opera deve essere fatta nei tempi previsti. Ok, tutto quello che serve lo faremo naturalmente senza badare a spese, cercando di contenerle il più possibile, ma non è che non facciamo una cosa che serve, non faremo una cosa che serve, non manderemo il numero di forze dell'ordine necessario perché non ci sono soldi, no? Perché questo metterebbe a rischio la realizzazione dell'opera. Siccome il primo punto è l'opera deve essere realizzata nei tempi previsti, tutto ciò che dal nostro punto di vista al Ministero dell'Interno sarà utile e necessario farlo e deciderà il tavolo tecnico. Chiedo scusa perché è un po' troncata la parte finale dell'intervento del Ministro Maroni. Dallo scorso 21 maggio il Movimento No TAV ha stabilito un presidio permanente per bloccare l'avvio dei lavori. Nell'ordine sentiamo Alberto Perino, leader del Movimento No TAV, Riccardo Chiabrando della Coldiretti di Torino, anche lui Notav, e Sandro Piano, presidente della Comunità Montana Val di Susa. sempre di più in piazza, perché abbiamo lanciato la mobilitazione permanente, quindi noi ormai non andremo più via dalla piazza. Oggi siamo qui, domani saremo alla Maddalena e dalla Maddalena non ci muoveremo più. Umberto Bertelè, professore, insegna strategia di impresa al Politecnico di Milano e è stato presidente della TAV, quella diciamo la Milano-Bologna, Torino-Bologna, non c'entrava nulla la Torino-Lione. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima domanda, rapidi che abbiamo 5 minuti scarsi. Se lei fosse un privato, visto che lei insegna strategia di impresa, investirebbe i soldi? Sono saliti a praticamente 9 miliardi, di cui 6 circa a carico dell'Italia. Investirebbe 5 e mezzo carico dell'Italia, 5 miliardi e mezzo per la Torino-Lione? Ma io, se fossi un'impresa, la risposta è chiaramente no. Cioè, l'impresa deve investire con ritorni in tempi ragionevoli. Il mercato finanziario non accetta l'idea che gli investimenti siano troppo lunghi e diventino troppo rischiosi, mentre viceversa io ho sempre creduto in maniera forte che gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali destinati a durare per generazioni, rappresentino un compito essenziale dello Stato. Se lei fosse lo Stato, investirebbe nella Torino-Lione? Ecco, io credo che ci sia un ragionamento importante da fare. Sicuramente l'opera è costosa, probabilmente alla fine, augurandomi che l'opera si faccia, i costi risulteranno superiori a quelli preventivati. Credo che però l'Italia debba evitare assolutamente il rischio di far passare tutti i traffici fra la Spagna, la Francia del Sud, eccetera, e l'est d'Europa al di sopra delle Alpi e venga tagliata fuori completamente da questo circuito. Nella storia abbiamo moltissimi casi di aree ricche che hanno poi subito dei danni molto forti dal fatto di essere tagliate fuori dai traffici. Da Venezia in poi, dice. Sì. Allora, sì. Professor Bertelè, però, insomma, qui i soldi sono tanti. Lei dice non ci sarà un ritorno immediato, però, aggiungo io, non avremmo fatto neanche la rete ferroviaria italiana se avessimo pensato al ritorno immediato sull'investimento, non avremmo fatto tantissime altre operazioni. C'è però un problema di risorse, perché i soldi europei, anche se arriveranno, sono 620 milioni, qui servono ancora 4 miliardi e passa, 4 miliardi e mezzo solo italiani. Ma io credo che i soldi europei, anche quando facemmo l'operazione dell'alta velocità, quella ferroviaria realizzata tra Napoli e Torino, un po' cara, è stata un po' cara, ma anche qui poi sarebbe molto interessante. Beh, tutte le varianti chieste, tutte le varianti chieste dai vari amministratori locali nel territorio, sappiamo che hanno pesato molto. Tutta una serie di opposizioni che hanno rimandato i lavori nel tempo, con costi addizionali. Mi piacerebbe molto un giorno avere una discussione su questo, tipo di tema. Ecco, io credo che anche in quel caso lì il contributo comunitario fu un contributo, direi, più simbolico come peso che non un contributo reale, ma importante, perché dava l'idea che si trattava di un'opera di interesse complessivo, non solo per il paese ma anche per il sistema di comunicazione globale. Quindi io credo che in questo caso non sia tanto il problema, c'è anche quello indubbiamente, di perdere i soldi dell'Unione Europea, ma il fatto che se li perdiamo questa operazione non verrà mai più presa in considerazione. Perché dice almeno con questi 670 milioni partono e poi la figura che facciamo con l'Europa è che ci diranno: vabbè, a questo punto facciamo il corridoio 5 Lisbona-Kiev sopra di voi, arrivederci, voi tornate a essere un paese solo mediterraneo. In una battuta, più importante spendere i soldi per la TAV o per il ponte sullo stretto? Ma se io dovessi scegliere, pur avendo anche avuto una simpatia per il ponte sullo stretto, direi che la TAV è un'opera strettamente necessaria. Simpatia di che tipo, mi scusi? Ovviamente, no, simpatia nel senso che quando esistevano risorse in quantità maggiore nel passato, io credo che alcune opere simbolo possano avere un loro senso con tutti i pericoli. Questa però è un'opera necessaria. Non è un'opera simbolica, è un'opera necessaria. Sì. Ovviamente ci sono dei problemi di compatibilità dei conti pubblici, certo. E quindi si tratta di capire se, come spero si farà, come ritmare nel tempo gli investimenti. Sì, la correggo solo su una cosa: quando non c'erano più soldi, quando si pensava che ci fossero più soldi, i soldi non ci sono mai stati col debito che abbiamo. Comunque, grazie a Umberto Bertolè, molto chiaro il suo ragionamento. Io devo dire, una volta tanto non ho problemi a ricordarlo, sono d'accordissimo, le opere si valutano non solo sui costi e il ritorno sull'investimento, ma anche in una prospettiva un po' più strategica, un po' più da paese, un po' più geoeconomica e geopolitica, non solo se servirà tutto entro i prossimi 5-10 anni. Grazie Umberto Bertolè, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani alle 17 con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.